La Fondazione Marino Marini ha importanti basi, ha un importante museo a Firenze e ha la sua sede a Pistoia. Nella sede, che non è un museo, vi sono moltissime opere e noi adesso, in questo periodo, anche durante il Covid, stiamo facendo un grossissimo sforzo per farle circolare, per farle vedere nel paese. Questa mostra di Bologna, che mi sembra venuta molto bella e che sia molto bella, proviene da Genova, dove è stata alla Galleria d'Arte Moderna di Genova, dove ha avuto un notevolissimo successo, soprattutto di persone che sono andate a visitarla perché volevano vedere una mostra di Marino. Marino è uno dei più importanti scultori del Novecento a livello mondiale e devo dire molto più conosciuto all'estero che in Italia. In Italia è poco conosciuto e noi il nostro sforzo, lo sforzo della Fondazione, è di cercare di farlo conoscere, ma soprattutto in un momento così difficile. Genova è stata aperta in pieno Covid, siamo ancora in un momento di allerta e di difficoltà, anche se forse vediamo uno spiraglio di luce. Ma questo sforzo di farlo in questo momento per noi è molto importante e speriamo che molte persone vengano a vedere la mostra, perché è particolarmente interessante e particolarmente bella. Anche la location è spettacolare. È corredata anche da altri percorsi? È corredata da altri percorsi e non posso altro che dirvi: venite a vederla. Sì, io ho la fortuna di avere questa anticipazione, tra l'altro. Grazie. Già la sensazione è assolutamente di incanto. Poi c'è da dire che le tre M del Novecento, Marino, Manzini e Manzù, sono i Martini. Sì, sono esattamente quello che colpiscono al cuore direttamente come talento artistico e orgoglio, tra l'altro. Vi è un percorso in tutto questo, in tutto ciò? Assolutamente, è un percorso e ci stiamo sforzando tantissimo per farlo e credo che queste due mosse abbiano buonissimo rilievo e che siano importanti e siano per noi soltanto un inizio di una grande attività. Abbiamo in programma una grande mostra all'estero, non posso anticipare nulla, ma è importantissima per fare conoscere il maestro Marini, ma anche e soprattutto per far conoscere la cultura italiana. Certo, oltre che l'aspetto della scultura, vedo che vi è anche arte su tela. Abbiamo anche arte su tela e ci stiamo concentrando sulla scultura, perché è la parte più importante della produzione di Marino Marini, ma la produzione su tela e anche le litografie sono molto importanti, ma vorremmo questo farlo e incominciarlo in un secondo tempo. La mostra che abbiamo in programma all'estero ha un titolo provvisorio ed è un'anticipazione questa che sto dando. E il titolo è Io sono Etrusco, titolo provvisorio, e lo stiamo facendo, dovremmo farla in collaborazione con i musei etruschi italiani, per cui porteremo probabilmente all'estero sia Marino che delle opere dei musei etruschi di Villa Giulia, di Cerveteri e di Napoli. Beh, l'aspetto equestre. L'aspetto equestre. Sì, è già nel titolo dell'esposizione. Esattamente. Che è una parte fondamentale nel talento e nella creatività di Marino. Io la ringrazio tantissimo per grazie la sua mille. Disponibilità e buona giornata. Grazie, buona giornata a tutti.